Salva Danaio di Deborah Rosciani. Based on its regular economic and monetary analysis. In seguito all'analisi della situazione economica, il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di aumentare i tassi di interesse dello 0,25% dopo averli lasciati invariati per 2 anni ai minimi storici. Con la decisione unanime presa oggi di alzare il costo del denaro, la Banca Centrale Europea non ha contestualmente deciso che si tratta del primo di una serie di aumenti dei tassi. La scelta intrapresa oggi è volta a garantire e assicurare la stabilità dei prezzi a medio termine. La manovra odierna contribuirà a tenere sotto controllo le generali attese di inflazione tra i cittadini. Allora, buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Lo avete sentito dalla sua viva voce, ma già ieri con questi contributi vi avevamo intrattenuto per larga parte della giornata di informazione di Radio 24. Era Jean-Claude Trichet, il numero uno della Banca Centrale Europea, quella BCE, che ieri ha alzato i tassi di interesse dello 0,25% nell'Eurozona, con una attesa e data per scontata decisione presa alla unanimità dal Consiglio direttivo di Francoforte. Il presidente Trichet, lo avete sentito, ha confermato che se da un lato la Banca Centrale Europea rimane estremamente vigile sull'inflazione, dall'altro lato questo rialzo dei tassi non sarà il primo di una lunga serie, proprio per evitare ricadute negative sulla ripresa economica. Ma che impatto ha avuto o avrà magari nelle prossime settimane in borsa questa manovra sui tassi? Ma che impatto avrà anche sul mercato obbligazionario? Quali settori in borsa beneficiano di una ripresa, di un aumento dei tassi? Quali ne sono invece penalizzati? E che tipo di movimento crea sui titoli obbligazionari una manovra restrittiva sui tassi di interesse? Alla luce appunto dell'andamento dell'inflazione e delle probabili mosse future della Banca Centrale Europea, è il caso di riorganizzare il proprio portafoglio di investimento, di rivedere obiettivi e strategie? Alla luce della manovra della BCE, oggi ci interrogheremo propriamente su questi aspetti, come sempre invitandovi a chiamarci all'800 24 0024 o a scriverci al 349 238 6666 o l'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Con noi questa mattina Saverio Scelzo, fondatore, presidente e amministratore delegato di Copernicus SIM, che saluto, grazie di essere con noi. Grazie a voi. Lo ringrazio soprattutto perché arriva da Udine il dottor Scelzo, perché insomma stamattina pur di essere a Salva Danaio si è fatto un bel viaggio, oltre ovviamente ad organizzare anche altri impegni milanesi. E poi con noi quest'oggi anche Matteo Astolfi, responsabile per le attività italiane di AMG, che è una società leader in Europa nell'asset management. Astolfi, buongiorno. Buongiorno. E grazie di essere con noi a Salva Danaio. Allora, vi ho dato i termini ovviamente per interagire nella nostra trasmissione. Adesso, prima di partire con la conversazione sul tema scelto questa mattina, peraltro mercati che si muovono anche per altri motivi, c'è ormai la richiesta formale di aiuti da parte del Portogallo alla Commissione Europea appunto per un piano di intervento per il sostegno finanziario a questo paese, 80-85 miliardi che l'Eurozona appunto di cui si dovrà caricare l'Eurozona, proprio perché il Portogallo non riesce più a far fronte alle esigenze finanziarie del paese e non riesce a reperire capitali sul mercato soprattutto. Andiamo a vedere in borsa che cosa succede. Parigi guadagna lo 0,85%, oggi Francoforte più 0,57%, Londra più 0,82%, Milano più 0,51% sul FTSE MIB. Questo movimento all'indomani della mossa della BCE, forse oggi il mercato torna a crescere proprio perché in realtà Trichet, come avete sentito, non ha detto che farà altre due manovre da qui alla fine dell'anno. Il mercato peraltro le sconta, ma ormai anche dopo le sue dichiarazioni qualcuno crede che forse il prossimo intervento da qui a dicembre 2010 potrebbe essere solo uno e non due, per cui forse la borsa oggi cresce anche un pochino per questo. La manovra restrittiva potrebbe essere meno severa per non caricare proprio la ripresa economica. Andiamo a Milano a vedere cosa accade. Già i titoli in più forte movimento ve li ho indicati nel giornale radio. Mediobanca più 3,37, Mediolanum più 3, Tenaris più 2,35, Parmalat più 2,28 e Generali oggi CDA per la designazione del nuovo presidente più 1,68%, Prismian più 1,54. I titoli invece in ribasso: abbiamo Intesa che si ferma dopo 3 giorni consecutivi di rialzo molto sostenuto, meno 1,14%, Buzzi meno 1, Mediaset meno 0,5, Monte dei Paschi meno 0,5, Unicredit meno 0,45%. Allora, il petrolio, andiamo un po' a dare un'occhiata anche al greggio, anche perché è colpa del petrolio se l'inflazione ha ripreso a correre e se la Banca Centrale Europea ieri ha dovuto riprendere ad aumentare i tassi di interesse. Il petrolio a New York oggi era a $110.85 al barile, poi vedremo l'apertura appunto nel pomeriggio. Brent a Londra 123.05, stiamo viaggiando sui massimi livelli da settembre e agosto 2008. Con chi cominciamo? Allora, Saverio Scelzo, comincio con lei a fare un po' di ragionamento su queste giornate che comunque in borsa continuano ad essere molto, molto calde, molto intense. Un giorno la Banca Centrale Europea, un giorno il Portogallo, ieri l'Irlanda, un giorno le banche che si ricapitalizzano. Sicuramente non c'è da stare, non dico tranquilli, ma non c'è da stare fermi. Bisogna essere sempre un po' alla finestra perché le vicende finanziarie sono sempre molto interessanti. E tra l'altro, da quando è scoppiata la crisi, insomma, forse non vediamo più movimenti vistosi di borsa che vedevamo nell'autunno del 2008, più 8, più 10, meno 10, esatto. Effettivamente la tendenza sembra più tranquilla, però non si abbassa la guardia. Questa mossa della BCE di ieri la davamo per scontata. Da qui in avanti Trichet cosa farà? Questo è veramente difficile dirlo. Il mercato si aspetta da qui al 2013 dei tassi di interesse che potrebbero salire fino a un 2-2,5%, quindi è possibile, nel caso in cui il mercato finanziario dovesse funzionare bene, che i tassi aumenteranno ulteriormente. Certo, è difficile fare previsioni a lungo termine, qui parliamo del 2013, ed è molto probabile che nel 2011, se mai ci dovessero essere dei ritocchi, saranno comunque contenutissimi. Dubito che succederà, anche perché dobbiamo tener conto, se me lo permette, che l'aumento, diciamo, dell'inflazione non è dovuta a un aumento della domanda interna nei vari paesi, purtroppo è dovuta all'aumento dei costi delle materie prime, prevalentemente. E quindi su questo aspetto bisogna fare molta attenzione. Non sono per nulla sicuro, anzi sono sicuro del contrario, che non c'è una vera ripresa dettata dalla domanda, ed è su questo che tutti quanti dovrebbero riflettere. Non c'è una vera ripresa legata alla domanda, diciamo, in termini di beni e consumi, certo, di risorse, cioè l'index è una ripresa legata fondamentalmente, anche tutti i miglioramenti che non sono ancora evidenti legati all'occupazione sono dovuti anche alle forti ristrutturazioni aziendali, per cui sì, certo, è un circolo abbastanza curioso quello che abbiamo intorno. Sì, diciamo curioso è l'aggettivo giusto, non virtuoso. Matteo Astolfi, vengo a lei perché proprio anche ieri ci siamo sentiti appunto prima di preparare la nostra trasmissione per capire un po' quali indicazioni potevamo dare. M&G è una delle società appunto che ritiene che da qui alla fine dell'anno Trichet non sarà particolarmente aggressivo. Ieri lo ha lasciato capire, quello di oggi non sarà il primo di una serie di aumenti dei tassi, e se il mercato ne sconta altri due da qui alla fine dell'anno, mi pare di capire che voi invece non crediate che ci siano altri due interventi. Perché, Astolfi? Ma noi crediamo effettivamente che forse ce ne sarà al massimo un altro, essenzialmente per i motivi che già accennava prima il dottor Scelzo. In sintesi direi tre punti: la disoccupazione rimane elevata in tutta Europa e questo sicuramente dovrebbe scoraggiare almeno in parte la banca centrale ad alzare ulteriormente i tassi. Non vediamo, il secondo punto, non vediamo nessun tipo di pressione salariale, anche dalla fase di rinnovi contrattuali che stiamo monitorando non ci sembra che ci siano le condizioni per chiedere aumenti salariali, diciamo, di massa, che poi si possono riflettere su un aumento dell'inflazione, e questo dovrebbe anche contribuire a lasciare tranquilla la BCE. E il terzo punto è che vediamo ancora molte imprese che sono in eccesso di capacità produttiva, quindi possono produrre molto di più, e diciamo la fase dell'economia non è ancora tirata da questo punto di vista per far sì che ci siano ulteriori rialzi dei tassi di interesse. Quindi questa capacità produttiva inespressa perché non c'è una domanda sufficiente ad assorbirla? Esattamente, esattamente quello che diceva prima il dottor Scelzo, e quindi non vediamo i motivi. Tuttavia ci rendiamo anche conto dei rischi, nel senso che la BCE, a differenza di altre banche centrali, penso alla Fed, penso alla Banca d'Inghilterra, è molto più focalizzata solo ed esclusivamente sull'inflazione, e non dimentichiamo ad esempio da questo punto di vista che secondo noi si trattava di un errore ad esempio a metà del 2008. E si aver fatto l'ultimo aumento. Esatto, e quindi temiamo da un punto di vista, diciamo, di tutori dell'inflazione che anche se dovessero fare due rialzi ancora nel 2011, di nuovo potrebbe trattarsi di un piccolo errore di politica monetaria da questo punto di vista. E insomma, diciamo che ieri Trichet ha lasciato capire il fatto che sta tenendo in considerazione anche queste osservazioni che poi dall'esterno analisti ed economisti gli fanno. Io vorrei provare a rifare la telefonata da Astolfi, se chiedo appunto a Fabio, al mio tecnico, perché lo sentiamo davvero disturbato pur essendo ad un numero fisso, però insomma qualche volta anche capita. Adesso ripristiniamo la linea con Matteo Matteo Astolfi, e ritorniamo invece a Saverio Scelzo. Devo dire che stanno arrivando, adesso speriamo di poterli mettere in linea al più presto, delle domande molto interessanti da parte di diversi ascoltatori. Poi vorrei sentire Sergio da Cremona, se lo riusciamo a recuperare, perché credo volesse farci delle riflessioni sulla validità o meno di un investimento in questo momento in titoli di Stato legati all'inflazione. Qual è che tipo di rappresenta problema per chi deve allocare, organizzare un portafoglio di investimento il tema dell'inflazione, Scelzo? È abbastanza elevato, perché se mai l'inflazione dovesse salire, cosa che dubito peraltro, almeno a livelli elevati, chi ha investimenti con duration, obbligazionari con duration particolarmente lunghe, a tasso fisso, avrebbe ovviamente una diminuzione dei valori di tal che dei titoli. Di conseguenza è consigliabile, in un'ottica di rialzo dei tassi, andare a investimenti brevi nel tempo. Ecco, questa infatti è un'analisi che leggo anche sui giornali, appunto riportata da altri suoi colleghi. Ci spiega proprio la dinamica, per quale motivo appunto in un'ottica di aumento prospettico dei tassi di interesse si devono privilegiare i titoli di Stato con scadenze brevi? Perché se vado al rinnovo ogni 3 mesi rischio di guadagnare sempre di più. Se viceversa il tasso è fisso e il titolo dura per molto tempo, devo andare a liquidarlo eventualmente, quindi con un prezzo di liquidazione più basso, perché non potendo incidere sul valore della cedola, devo per forza incidere per poterlo vendere sul valore del titolo. Questi sono anche i suggerimenti che state dando ai vostri clienti in questo momento? Ma oggi un cliente nostro è indirizzato a consolidare i guadagni degli ultimi 2-3 anni. Noi siamo stati abbastanza investiti nel mercato azionario e quindi cerchiamo di riclassificare il portafoglio portando a casa i risultati che ci sono stati negli ultimi 3 anni. Chi è riuscito a rimanere investito negli ultimi periodi ha guadagnato, ovviamente. Quindi se aveva una componente azionaria desiderata intorno a un 30-40%, adesso ce l'ha più alta e bisogna portare a casa i risultati. Certo che avete dovuto fare anche un esercizio psicologico con i vostri clienti di suggerimento di queste posizioni, come dire, degli atti di coraggio forse per qualcuno, però alla fine vincenti. Sì, temerari per certi aspetti. In realtà, se uno ha una strategia e uno ha un obiettivo di lungo termine da perseguire, è chiaro che questo deve essere una cosa che deve essere tenuta in considerazione. Vorrei giocare sul lungo termine. Mi si chiede spesso, ma quanto dura il lungo termine? Sì, anche perché gliene aggiungo un altro di aspetto che non faccio altro che ricordare nella nostra trasmissione. Questa crisi finanziaria ha cancellato il concetto del lungo termine, perché annullando i guadagni di borsa dal 97 in avanti, 12 anni fumati così, esatto. Cioè, nel 2008 poi, per carità, i corsi sono ripresi, però vai sì, però a convincere un cliente che la validità dell'investimento azionario di lungo periodo. Infatti quello che conta è che il risparmiatore deve avere ben chiaro quali sono le sue aspettative di investimento in termini di tempo, cioè quando deve utilizzare il proprio risparmio. In realtà il lungo termine è un orizzonte temporale che ogni risparmiatore deve avere indipendentemente da quanto è già stato investito. Non c'è una scadenza a termine nei mercati azionari e quindi è solo un problema di riuscire a definire bene in termini di pianificazione. Non per niente il mio mestiere in America viene chiamato financial planning, una pianificazione finanziaria di quelle che sono le proprie esigenze, e su queste esigenze il risparmiatore deve essere lealmente coerente con se stesso. Allora, adesso abbiamo ripristinato il collegamento con Matteo Astolfi, ma nel frattempo, Astolfi, siamo arrivati alla prima pausa, per cui la rivalorizzo ampiamente nella seconda parte della nostra trasmissione. Il tema da cui vorrei partire è l'impatto dell'aumento dei tassi di interesse sul mercato azionario, quali settori ne beneficiano, quali invece ne sono penalizzati, quindi la lascio riflettere anche un paio di minuti, sentiamo il meteo, qualche suggerimento pubblicitario, poi anche la domanda di Sergio da Cremona, che è pronto a tra pochissimo. Salva Danaio. È essenziale che il recente rialzo dei prezzi, in particolare quelli energetici, non generi rialzi generalizzati sul medio termine. La BCE dovrà monitorare molto attentamente tutti gli sviluppi della situazione economica a partire dall'inflazione. L'obiettivo ufficiale dell'Eurotower è tenere la crescita annua dei prezzi al consumo inferiore ma prossima al 2%. Mantenere ancorate le aspettative di inflazione è un beneficio per tutti i paesi dell'Eurozona e può contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro. Continueremo a seguire con attenzione la situazione. I rischi al ribasso dipendono anche da eventuali eventuali rialzi nei prezzi delle materie prime, in particolare in seguito alle attuali tensioni geopolitiche. L'aumento dell'inflazione nei primi mesi del 2011 riflette infatti largamente il rialzo dei prezzi delle commodity. E avete sentito le motivazioni che ha utilizzato Jean-Claude Trichet, numero uno della Banca Centrale Europea, proprio per spiegare questo intervento effettuato ieri sui tassi di interesse portati nell'Eurozona all'1,25%, siamo comunque ancora su livelli assolutamente storicamente bassi. Parlava della pressione delle materie prime e vi annuncio che poco fa l'oro ha toccato il suo nuovo ennesimo massimo storico a 1471,29 dollari l'oncia. Vi do anche un'altra notizia, una chicca di divertente, siamo anche ai massimi da 2 anni e mezzo sul dollaro da parte del rublo. E vabbè, poi non so se ci interessa anche conoscere la dinamica del rapporto fra rublo e dollaro, però quello che ci interessa conoscere è Matteo Astolfi di M&G Italia, è qual è l'impatto di un aumento dei tassi di interesse sul mercato azionario. Peraltro questo impatto, diciamo, lo aveva digerito la borsa già da diverse settimane, perché era assolutamente una manovra preannunciata da Trichet, data per scontata. Ma se ci dovesse spiegare quali sono i settori che ne beneficiano e quali settori invece ne risultano penalizzati, come ce lo spiegherebbe? Ma direi che appunto abbiamo visto già questo rialzo dell'euro sicuramente significativo, ad esempio ricordiamo tutte le industrie, gli esportatori tedeschi, anche qualche esportatore italiano, aziende legate appunto alle esportazioni, esportando in euro, con un euro più forte settori industriali o tecnologici, manifatturieri, possono essere nel breve periodo un po' penalizzati dalla forza rinnovata dell'euro da questo punto di vista. Direi sicuramente che settori anche penalizzati possono essere in generale tutti i settori dove l'indebitamento è elevato e quindi aziende, singole aziende che abbiano alta leva finanziaria, siano molto indebitate o debbano andare ad indebitarsi ulteriormente, chiaramente pagando tassi di interesse più elevati sono anche svantaggiati in questa fase. Mm-hmm. Nel breve, quelli che possono tendenzialmente essere favoriti possono essere settori ad esempio come quello finanziario, dove se le banche lavorano bene possono, diciamo, lavorare meglio sulla forchetta degli spread con tassi di interesse un pochino più elevati, e non sempre poi possono scaricare a valle però sui clienti finali questi nuovi tassi di interesse. Sicuramente un settore favorito è quello dei basic material, delle commodities, come anche lei ha giustamente accennato, e quindi nel breve le dinamiche dovrebbero essere queste. Bisogna tuttavia stare attenti a verificare che anche i successivi aumenti che il mercato in parte sconta si verificheranno oppure no, perché questo potrebbe un pochino fare la differenza. Certo. Allora, intanto volevo spiegare ai nostri ascoltatori che stamattina appunto l'aumento dei tassi di interesse lo valutiamo dal punto di vista dell'impatto sul mercato azionario ed obbligazionario. Sui mutui ci ritorneremo, ma abbiamo fatto già tantissime puntate, abbiamo spiegato già tante volte che a prescindere dalle decisioni della Banca Centrale Europea, la rata del mutuo, se lo avete a tasso variabile, si muove anche in relazione ad un altro tasso, che è quello interbancario, che è l'Euribor. Per cui, per quegli ascoltatori che ci segnalano, dice: ma come, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi ieri, ma la mia rata è già cresciuta negli ultimi mesi? È perché appunto il parametro a cui la rata del mutuo è indicizzato è un altro, è l'Euribor, sono i tassi interbancari. Non tutti i mutui, anzi molto pochi, sono legati al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea, perché poche banche hanno un mutuo di questo tipo e non ne hanno venduti moltissimi effettivamente, perché è un mutuo proprio estremamente giovane e non è detto che lo abbiano appunto suggerito. Andiamo invece adesso alle domande sulle tipologie di investimento che è il caso di effettuare alla luce dello scenario nuovo che si è creato da ieri, cominciando con Sergio da Cremona. Sergio, sì. Ci sente? Buongiorno. Buongiorno a lei. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie, Sergio. La mia domanda è in breve. Io ho sentito lì gli esperti che dicono prevedono che non ci siano ulteriori aumenti del tasso ufficiale. Non però ce ne saranno molti. Ripeto, no, quello di ieri non è il primo di una lunga serie, probabilmente un altro ce ne sarà, forse due, Sergio, quindi rispieghiamo un po' con chiarezza. Alla luce di questo, vale la pena investire, come dice il Corriere Economia di 2 settimane fa, un 15-20% del proprio portafoglio l'ho messo già in CCT, in titoli agganciati all'inflazione. E quindi non so se il consiglio era quello di mettere un po', naturalmente, delle disponibilità su CCT o... Sergio, lei è un investitore aggressivo o prudente? Come si definirebbe? Io metà e metà, diciamo. Ecco. Va bene. Questa forse è la parte che vorrebbe di investimento proteggere un po' di più. Scelso, allora facciamo un po' il consulente e faccio fare anche un po' il suo lavoro stamattina, oltre che il presidente amministratore delegato di Copernico Sim. Beh, certamente qui siamo al Sole 24 Ore, quindi bisognerebbe leggere che cosa dice il Sole. Comunque credo che un 15... il Sole non è che dice cose, no, interpella, certo, esperti, sì, come probabilmente ha fatto Massimo Fracaro di Corriere Economia, che è il collega appunto che dirige quella, certo, sezione degli investimenti del Corriere. Una parte, una componente legata all'investimento obbligazionario che abbia una sorta di indicizzazione e inflazione, sì, ma quello bisogna sempre tenerlo in considerazione. Un portafoglio equilibrato deve tener conto, come dicevo prima, delle esigenze personali di ciascuno, quindi tutto ciò che va speso a 2-3 anni, consumato a 2-3 anni da oggi, deve essere mantenuto in liquidità o comunque con investimenti molto brevi nel tempo o comunque indicizzati, facilmente liquidabili in ogni momento. Una componente obbligazionaria anche diversificata, magari nei paesi emergenti, potrebbe essere interessante, perché lì ci può essere un qualche guadagno, un extra guadagno, si può generare alfa lì. Un obbligazionario, direi che per quanto riguarda il comparto obbligazionario, un 50-60% del portafoglio mi sembrerebbe adeguato per un investitore che comunque abbia nel suo DNA una propensione al rischio. E la componente azionaria diversificata sia a livello territoriale che anche a livello di temi. Un tema potrebbero essere quello delle utilities, un altro tema... Sempre in un'ottica di protezione dall'inflazione? Perché mi sembrava che questo era un po' l'obiettivo dell'ascoltatore, fondamentalmente il centro dell'interesse. Il centro dell'interesse non può essere soltanto l'inflazione. A, perché non vedo all'orizzonte, almeno per quanto riguarda i mercati europei, grossi rischi di inflazione. Non dimentichiamoci che noi siamo stati abituati prima dell'euro ad inflazione a due cifre. Oggi l'inflazione reale si potrebbe attestare intorno a un 2-2,5%, ma mettiamo anche il 3. Beh, depurata dalla componente energetica è probabilmente più bassa. Sì, ma se noi la teniamo come rischio massimo, se noi arrivassimo ad un'inflazione, magari grazie all'aumento dei prezzi al consumo, perché non dimentichiamoci che qui il grosso problema, lo diceva Stolfi prima, è una capacità di poter produrre molto di più rispetto alla possibilità di comprare. Quindi se penso ad un'inflazione a rischio massimo, 2%, 2,5%, mi sembra già enorme come rischio massimo sotto il profilo inflattivo. Non vedo questo come un problema drammatico e porre l'inflazione al centro di tutti i miei di tutte le logiche che determinano poi le mie scelte strategiche in termini di investimento. La capacità produttiva è il grosso problema, non perché siamo capaci di produrre molto di più rispetto a quello che facciamo, ma perché oggi chi produce non riesce a vendere e quindi ci si ritrova a dover gestire l'invenduto e il non pagato. Questo è il vero dramma, cioè noi dovremmo riuscire a creare maggiore domanda, non soltanto a livello nazionale, ma anche intercettare l'enorme domanda a livello internazionale, che non sempre riusciamo ad intercettare. Certo, la scorciatoia del valutario noi oggi sembra non riusciamo a intercettare, forse anche a causa della BCE, però insomma tutto sommato non mi sembra di vivere una situazione drammatica. Volevi dirvi una cosa? No, la ringrazio anche per questa riflessione, perché c'è un ascoltatore che ci scrive: Carlo, salve, continuate ad analizzare, io vorrei un dibattito su cosa fare, la vedo da me la situazione, magari un po' di ottimismo può aiutare. Non mi sembrava di essere stata particolarmente disfattista stamattina. No, ma io sono d'accordo con questo radioascoltatore, perché guarda, in altri momenti, con una crisi del Nord Africa di tipo storica, di cui i risvolti non sono ben noti, quindi con grandi problemi anche di tipo energetico potenziale, con una gravissima crisi energetica sotto il profilo del nucleare, perché è molto probabile che si delineeranno nel futuro dei cambiamenti epocali, questi sì, da un punto di vista produttivo sotto il profilo energetico, con crisi anche politiche che abbiamo a livello globale, la borsa tiene dall'inizio dell'anno, siamo intorno a un 4-4,5% a livello europeo, in altre fasi questa sarebbe stata una catastrofe. E invece non c'è affatto una catastrofe, ci sono delle piccole oscillazioni giornaliere, ma insomma non vedo nulla di particolarmente negativo. Oggi si fa un gran parlare dei crash test nel campo bancario, ma degli stress test nel settore bancario. Ma sì, potevamo definirli anche crash test. Ma non sono dei... Ecco, invece io ho sbagliato, perché in realtà non c'è nulla di così crash in tutto ciò. Anzi, credo che dalla capitalizzazione delle principali banche europee ne trarremo dei vantaggi, credo. Allora, no, tra l'altro mi incuriosiva questa analisi che è stata fatta dalla domanda sui BTP di Sergio da Cremona. Siamo arrivati ai crash test bancari, abbiamo fatto tutto un salto appunto nel mondo, però stress test, sì, ma io li definirei anche un po' crash, se non altro appunto per le modalità con cui sono stati fatti la scorsa estate, che non hanno convinto nessuno, e speriamo che quest'anno siano nell'esito sicuramente più trasparenti a giugno, quando li conosceremo, anche se l'Irlanda li ha già fatti. Allora Stolfi, non mi sono dimenticata di lei, poi tornerò con altre considerazioni anche rilasciandole il microfono. Vediamo se riusciamo a fare la domanda a Marco da Milano e poi gli rispondiamo dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. Marco, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione anche da parte mia. Grazie. Prego. Niente, la mia domanda era, io sono esposto su dei BTP decennali e il mio interesse principale è avere la cedola, non mi interessa tanto il discorso del valore nominale, però mi chiedevo se il discorso del valore nominale comunque portato a 100, praticamente viene rimborsato a 100, io non corro giustamente nessun pericolo, penso, e se potrei sfruttare il fatto dell'avvento dell'aumento dei tassi avendo delle disponibilità per mettermi in portafoglio altri BTP di questo genere. Marco, sì, la ringrazio, la domanda è molto chiara, suggerimenti per chi è in viaggio, e poi a Stolfi si prepari lei una risposta, se appunto Marco venisse nel suo ufficio a fare una chiacchierata con lei, le predisponesse una situazione personale di questo tipo, anzi l'ha già fatto, che cosa gli risponderebbe? Tra pochissimo. Matteo Astolfi, eccoci di nuovo a lei. Allora io ricordo ancora il numero verde per intervenire, 800 24 00 24, per le vostre domande, oppure 349 238 6666. Ha sentito il portafoglio di Marco da Milano, che molto lucidamente lui dice: io ho il BTP a 10 anni, con l'aumento dei tassi di interesse so che il valore nominale del mio investimento va a scendere, però a me quello che interessa è la cedola, ho una certa disponibilità, che faccio? Incremento la mia posizione su questo settore? Lei che cosa ne dice? Ma gli consiglierei sicuramente di vedere con il suo consulente finanziario la sua situazione complessiva, nel senso che, come già accennava l'ascoltatore, oggi i BTP decennali quotano fra 93 e 99, quindi oltre alla cedola si porta a casa alla scadenza sicuramente anche le 100 lire, a meno che ci siano problemi sul debito pubblico italiano, cosa che diciamo per il momento non consideriamo. Il problema è considerare... Averci messo questo inciso per il momento mi incuriosisce, Astolfi, poi dopo magari lo analizziamo. Prego. Volentieri possiamo approfondire. Sì, vabbè, non ce la fa, magari stamattina non ce la facciamo, però insomma diciamo che non è un tema all'ordine del giorno questo. No, assolutamente. Però ecco, la domanda un po' provocatoria che vorrei fare all'ascoltatore è se fosse disposto anche al prezzo, rispetto al prezzo di oggi, che appunto sta tra 93 e 99, se il BTP dovesse andare a 85, a 80. È disposto, le coronarie reggerebbero una situazione di questo genere? Esatto, e sicuramente la domanda successiva, sicuramente da qui a 10 anni l'ascoltatore non dovrebbe assolutamente andare a intaccare questi soldi, per cui la domanda è se c'è ragionevole certezza che non ci sia necessità di disporre di queste somme, potrebbe sicuramente avere un senso. In alternativa consiglierei di diversificare anche su obbligazioni di tipo diverso, come ad esempio possono essere titoli indicizzati all'inflazione, piuttosto che titoli anche di altro tipo. CT, tasso variabile e quant'altro. Va bene, vado a rispondere all'altro telefono a Stolfi, che mi sa che la stanno chiamando, poi la ripeschiamo per un'altra domanda. Tra l'altro, quello che volevo anche dire è che noi stiamo facendo tutto questo ragionamento sull'andamento dei rendimenti dei titoli di Stato guardando solamente alla manovra della Banca Centrale Europea, la prospettiva di un ulteriore aumento dei tassi di interesse, ma abbiamo visto, scelto come in questo ultimo anno, soprattutto anno e mezzo, i rendimenti dei titoli di Stato siano stati scossi soprattutto dalla crisi degli Stati sovrani europei, con certi rendimenti schizzati alle stelle, l'Irlanda riconosciuto per il suo decennale oltre il 10%, per cui per la verità sono molte le componenti che devono essere prese in considerazione quando si fa una scelta di investimento sul bond governativo, o no? Dobbiamo guardare solo i tassi di interesse? No, assolutamente. Cioè, ovviamente il tasso di interesse è la remunerazione del capitale. Quindi più il tasso di interesse è alto, più quel capitale viene remunerato. Se viene remunerato di più è perché presenta in qualche modo una simmetria con il resto del mercato, quindi una certa inefficienza. Tornando al discorso di prima, io credo che sia estremamente importante, sotto certi aspetti, non diversificare anche l'emittente. Cioè, un po' mi dispiace quando si mettono tutte le uova nello stesso paniere, e se quel paniere dovesse cadere, tutte le uova si romperebbero. Quindi invito chiunque a diversificare anche l'emittente. Spesso di questo non se ne tiene conto. L'emittente non significa non aver fiducia nell'emittente in cui investo, perché altrimenti non investirei nemmeno un centesimo di euro. Però è buona prudenza la diversificazione anche sotto questo aspetto. Un nemico che ha l'investitore continuativamente è l'eccessiva prudenza o l'eccessiva aggressività in certi momenti. Questo spesso è dettato dalla paura o dall'avidità, e anche su questo bisogna fare grande riferimento. È un'altra puntata magari. Mi avete aperto due grossi macro temi che proprio stamattina non riusciamo ad affrontare, ce li mettiamo in agenda per affrontarli successivamente. Allora, lo sapete bene, i risparmiatori italiani soprattutto sono affezionatissimi al mattone, e Gaspare da Milano è preoccupato proprio sull'effetto che avrà questo aumento dei tassi sul mercato immobiliare. Gaspare, buongiorno. Da Palermo, prometto, non più neanche della trasmissione. Che cosa ho detto? Non ho detto. Da Milano. Dicevo che questi tassi, l'andamento è al rialzo, scoraggiano le persone ad acquistare l'immobile, il mercato immobiliare, che se ne saprà? Gaspare, sa com'è? Io quando affronto un dibattito di questo tipo mi dicono sempre che se uno deve comprare casa per sé, a meno che non lo faccia per un puro investimento, non deve guardare al momento storico, appunto, economico, circostanze, perché comunque la casa è un bene di investimento che viaggia in genere su binari abbastanza differenziati rispetto ad altri asset di investimento. Matteo Astolfi, lei che cosa mi dice? Poi non so se come MNG Investment analizzate accuratamente anche il mercato immobiliare, e italiano e quello internazionale. Ma diciamo, non è sicuramente tra i nostri massimi punti di esperienza, però sicuramente è un asset class molto poco liquida per definizione, e da questo punto di vista va detenuta per lunghi periodi, molto di più che non normali fondi comuni di investimento, ad esempio a breve, medio e anche lungo termine, che operano su attività tutte o quasi tutte molto molto liquide, facilmente liquidabili, dove c'è un mercato sottostante. L'asset class immobiliare, appunto, per definizione a volte si può dover aspettare mesi se non anni per trovare il giusto compratore, e quindi anche questi piccoli, confermo che secondo noi saranno piccoli, movimenti sui tassi di interesse non dovrebbero influire in un'ottica di, pensiamo, 10 o 20 anni come dovrebbe essere quella di un investimento di tipo immobiliare. Peraltro nei giorni scorsi noi abbiamo rifatto di nuovo l'esame del settore con il recente rapporto Nomisma, che in realtà è ridiventato un po' più prudente rispetto alle previsioni più ottimistiche di un anno fa, proprio perché teme che il mercato del credito torni ad ingessarsi ancora un pochino. Comunque, insomma, crisi bancaria, siamo più sereni rispetto a qualche mese fa, ma non siamo ancora completamente fuori dal tunnel. Basti vedere quello che è accaduto in Irlanda, a Lisbona, dove appunto sono soprattutto i sistemi bancari al centro della crisi enorme. Scelso, le piace il mercato immobiliare? No. Perché? Non mi piace perché anche su questo è caratterizzato da un eccesso di offerta sulla domanda. Rispetto a 20-30 anni fa, oggi sono ben pochi gli investitori che investono in questo settore. Questo settore nel passato e anche nel presente, ma soprattutto nel passato, è stato caratterizzato da una grandissima gestione del nero. Questo ha fatto lievitare molto i prezzi, e secondo me il prezzo del mercato immobiliare non dovrebbe essere influenzato da questa variabile. Teniamo conto anche di un altro fattore: moltissima gente oggi compra le case, e quindi mi sembra che più dell'80% dei cittadini italiani siano proprietari della propria casa, e questo significa che non ci sarà una grande domanda nel futuro, anche perché, non dimentichiamocelo, abbiamo un gravissimo problema di tipo demografico. Fra 20-30 anni da oggi saranno presenti i bambini nati oggi, che sono molto pochi. Purtroppo anche questo è un aspetto estremamente negativo se visto in prospettiva. La nostra età media è molto molto molto alta, quindi fra un po' di tempo tanta gente non ci sarà più. Allora, che cosa abbiamo adesso? Stiamo andando verso la chiusura. Abbiamo il nostro salone del risparmio. Sì, no, mi stavano sbracciando i miei collaboratori. Sì, abbiamo il salone del risparmio, l'ultima pillola che mandiamo in onda oggi. Oggi, tra l'altro, è anche l'ultimo giorno del salone qui a Milano, organizzato da Assogestioni. Sentiamo un po' a quale domanda abbiamo risposto tra quelle che ci avete lasciato nella nostra segreteria telefonica. Radio 24 e Assogestioni presentano Le domande del risparmio. Io avrei la necessità di disinvestire dei soldi, ma sapete per caso dirmi con quali modalità o con quali tempistiche posso ottenere il rimborso del mio investimento in un fondo? Grazie. Caratteristica fondamentale di qualsiasi fondo aperto è quella di poter chiedere il rimborso delle quote sottoscritte in ogni giorno lavorativo senza dover dare alcun tipo di preavviso. La domanda di rimborso, formulata sull'apposito modulo, va inoltrata alla SGR, Società di Gestione del Risparmio, direttamente o tramite i soggetti collocatori. L'importo del rimborso è di norma determinato in base al valore della quota del fondo del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR, valore pubblicato sui quotidiani due giorni dopo. Da questo importo vanno detratte le commissioni di uscita eventualmente previste. I soggetti collocatori che hanno ricevuto la domanda di rimborso sono contrattualmente tenuti a trasmetterla alla società di gestione entro il giorno lavorativo successivo. Una volta fissato il valore della quota per il rimborso, la SGR deve disporre il pagamento, cioè ordinare il bonifico oppure inviare un assegno, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della domanda. Le domande del risparmio. Salone del risparmio che si conclude oggi, peraltro, con un boom di visitatori, perché oggi è aperto al pubblico indistinto, ma fino a ieri aveva avuto qualcosa come 5.000 partecipanti, che si chiude con un saldo negativo per 1 miliardo di euro registrato a marzo dei prodotti del risparmio gestito secondo i dati di Assogestioni diffusi ieri. Insomma, quindi una chiusura che non sarà molto felice. Grazie a Saverio Scelso e Matteo Astolfi per essere stati con noi. Salva Danaio torna lunedì, saremo in diretta da Verona, dal Vinitaly. Buon fine settimana a tutti.